Riconvocati Weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Milan è come casa mia, vengo per aiutare, migliorare le cose, soprattutto l'ultima partita non era wow, ma obiettivi non è 100 metri sprint, è un marathon, si lavora, è un work in progress, bisogna lavorare tanto e credere. Non è che pensiamo che Ibra sia il salvatore della partita, nessuno deve pensare che Ibra possa risolvere tutti i nostri problemi, ma Ibra sicuramente sarà sicuramente un valore aggiunto nel nostro lavoro, un valore aggiunto nella nostra quotidianità e presto sarà anche un valore aggiunto nelle nostre partite. Poi è chiaro che tutti noi dobbiamo dimostrare di poter fare qualcosa in più di quello che abbiamo dimostrato sino ad oggi. Che vengo come un mascot per stare là in fianco al diavolo per ballare, vengo per aiutare in campo. Piontek e Ibrahimovic possono giocare insieme? Tutti possono giocare insieme, quello che conta è l'equilibrio, l'efficacia della squadra, quello che conta è creare più occasioni degli avversari da gol. Buongiorno di nuovo, buon anno a tutti. Edoardo Lavezzari, il nostro autore, Andrea Roccabelli in regia, prima comunicazione di servizio. Giovanni Capuano naturalmente sarà qui in tutti i convocati weekend domenica prossima 17-19, così come oggi. E l'altra comunicazione di servizio è il numero di telefono, numero verde 800 24 00 24, per intervenire, dirci a vostra su Ibrahimovic deve giocare domani o no, oppure siete stufi di sentirne parlare, immagino di sì, però tant'è, questa è la notizia della settimana. La notizia del giorno invece è il ritorno di Pierluigi Pardo. Ciao Pier, tanti auguri. Ciao. Auguri, eh? Benissimo, anche perché adesso voglio capire se Pioli ha dormito dopo averne presi 5 dall'Atalanta, tra poco lo scopriamo. Altra notizia del giorno, la Lazio suona la nona a Brescia, anche con fortuna per la verità, passerà la notte della Befana aspettando la Befana insieme alla Juventus e all'Inter che giocano domani, e avrà dormito Pioli dopo le 5 schiaffi presi con l'Atalanta. Franco Ordine, buongiorno. Io gliel'ho chiesto, non mi ha risposto, ma mi sembra di capire comunque era indispensabile di portare indietro le lancette l'orologio a dopo Bergamo, perché sennò questa passava in cavalleria, una sconfitta. No, quella non è una sconfitta, quella è una roba che sarà ricordata ed è una roba sulla quale bisognava comunque per capire anche. Sì, bisognava capirlo, tu gliel'hai chiesto in una conferenza stampa molto serrata, in un batti e ribatti tra te e lui, e le risposte sono state un po' evasive, facciamo così. Invece a Fabrizio Biasin che saluto, buongiorno. Ciao a tutti, auguri ciao. A tutti. Ciao. Buon anno. Ciao, voglio... auguri doppi a Brasile, a Biasin, poi ve lo dico perché. Poi mi dici perché, sono curioso, però. Non farite così. Io però gli voglio chiedere se secondo le sue fonti Ibrahimovic ha già operato delle guarigioni miracolose. Ma io so quello che avete letto anche voi, pare di sì, il suo arrivo è stata una mano santa, ho letto, per cui ci immaginiamo un Milan diverso a partire dalla partita di domani, così ci dicono, per cui siamo tutti in attesa di capire se effettivamente l'acquisto di Ibra serve non solo ad avere un giocatore in più, ma ad avere anche un traumaturgo, un magazziniere, un nuovo allenatore, qualunque cosa. L'hanno preso per quello, vediamo se riesce a fare il miracolo. Intanto io e il mio amico Pierluigi siamo contenti che sia tornato, confermiamo, no Pier? Ma penso che siamo tutti contenti, nel senso che qui non è un fatto. Ma secondo me sì, vabbè, ci sono quelli che dicono che non bisogna investire su 38enne, e ci sta come filosofia di vita, è giusto, però Ibra è la classica eccezione che conferma la regola, cioè è chiaramente qualcosa di diverso. Poi se andrà bene, andrà male, non lo sappiamo, però è una suggestione enorme, lo è ovviamente soprattutto per i tifosi del Milan che sperano di tirar fuori qualcosa di positivo, secondo me in assoluto, lo è anche per il nostro campionato in generale, nel senso che comunque è un grande nome, una grande personalità, comunque un ragazzo ancora secondo me capace di magie. Poi la continuità non so se sarà quella di 5-6 anni fa, sarebbe bionico se fosse così, però insomma mi sembra una suggestione positiva, insomma mi sembra giornalisticamente, che non è, insomma, non è un brutto avverbio, no? Vuol dire appunto l'interesse complessivo del campionato, e riguarda non solo i giornalisti, ma riguarda i tifosi, tifosi del Milan e anche i tifosi degli avversari, mi sembra una buona cosa. Sì, ecco. Sì, poi sai, su quel giornalisticamente c'è chi ci dice, va, voi siete contenti perché vi dà un titolo al giorno, il che è vero, ma non è questo il punto. Ribadisco il concetto che non è un punto di share che ci alza lo stipendio, esatto, e nemmeno un titolo in più, è proprio il piacere di raccontare delle cose interessanti, e Ibrahimovic certamente da questo punto di vista è un personaggio, e quindi altra parola bruttissima, mediaticamente interessante, vuol dire poi tradotto che se ne parla in tutti i migliori e peggiori bar d'Italia, e quindi viva Ibra, ecco. Sottoscrivi, sembra... tutto, Franco? Trovo Pierluigi molto lucido dopo le vacanze, quindi deve aver anche fatto una bella dieta, e dico che ha fatto bene, dubiterei, che fa bene, ma comunque sì, vabbè, mi tengo i miei dubbi, ha fatto bene all'ambiente. Domani ci saranno 65.000 a pagare il Milan Sampdoria San Siro, vuol dire che comunque l'effetto positivo già ci sarà. Io penso che non comincerà subito, che magari entrerà dopo, anche perché obiettivamente è vero che è molto tirato, si è allenato, ma si è allenato soprattutto, diciamo, dal punto di vista fisico, ma il ritmo partita gli manca sicuramente, la giocata il 28 ottobre, per cui bisogna anche pensare, proprio perché non deve essere il salvatore della patria, bisogna anche non lanciarlo allo sbaraglio. E poi devo dire francamente che questo Ibra l'ho trovato molto più consapevole anche nei limiti, quando dice io non ho firmato per 6 mesi perché se va bene resto, ma se non va bene mi accorgo che non sono più utile alla causa dopo i primi 6 mesi. In alcuni suoi spigoli l'ho trovato proprio molto più allato. Sì, ha dato questa. Sì, anche Mourinho alla prima conferenza stampa sembrava chiarichetto, poi è andato a spiare subito i taccuini degli avversari facendo incazzare tutti. Senti, ma perché auguri doppi a Biasin? Ma no, perché tu sei il solito per te. Io sì. Sì, ti accontento perché so che il Redis è una bellissima vacanza sentimentale. Ah, pensavo altre cose. Bene, bene, siamo tutti molto felici. No, ma come pensavo altre cose? Ne so io. Mi dice auguri dopo. Mi sono concesso una vacanza con la mia dolce metà. E bravo. Quindi Franco, che sarà il mio testimone di nozze. No, questo non lo vedo neanche se ci credo. Cioè, non ci credo neanche quando lo vedo. Cantare, perché ho anche dei pezzi nuovi, Ho anche dei pezzi nuovi, Biaso. Non vedo l'ora. Oh my god, agenzia matrimoniale. Siete tutti invitati da Rosy e Gabriele a sentire le performance di Pier Pardo. No, senti una cosa, al di là, poi hai approfittato anche per mandarci l'altro giorno un apprezzato WhatsApp vocale in cui ti riferivi a Ibrahimovic. Ti sei dimenticato di dire che quel 21, che su quella maglia numero 21 manca un meno, giusto? Un meno in che senso? Un meno? Meno 21 dall'Inter e dalla Juventus. Ah sì, io in questo momento sinceramente credo che nessun tifoso del Milan stia a guardare la classifica, cioè non so se si ragiona sul miracolo possibile di Ibra che arriva e riporta il Milan in zona Champions, mi sembra veramente improbabile. Però qui il dato di fatto è che c'è Ibra e va benissimo, ma ci sono altri 10 giocatori che devono giocargli di fianco e magari rendersi conto di dove si trovano. Perché, sì, ma comunque Fabrizio, io comunque starei un po' attento, perché non per altro, perché comunque è vero che c'è 38 anni, ho letto una collezione di spot strepitosi. Stamattina Crosetti che dice è già lì con il plaid numero 21, però voglio dire, bisogna stare un po' attenti a Ibrahimovic secondo me, perché Ibrahimovic secondo me in qualche partita può fare come Alberto Soldi in quel famoso film Un americano a Roma davanti al piatto di spaghetti, mette mania, oppure anche il Marchese del Grillo, diciamo. Bravo, il Marchese del Grillo è l'interpretazione di Sordi che più mi ricorda Ibra. Dobbiamo fare traffico, state lì ragazzi, un attimo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Napoli rappresenta la risposta a quello che ha fatto con il Milan, perché secondo me col Milan si è un po' sottovalutato quello che ha fatto Gennaro. Cioè, visto oggi l'annata di quest'anno del Milan, il Milan non dimentichiamo che è anche un'altra squadra che ha aggiunto senza nulla togliere ai calciatori dell'anno scorso, perché tutti i migliori calciatori sono rimasti nel Milan, in più ha aggiunto anche un buon mercato. E questo dimostra il grande lavoro che lui ha fatto l'anno scorso, il fatto che si sia meritato Napoli. Allora Franco, c'è Conte che mentre Mourinho spia il taccuino di Mecchia. Scusa, volevo chiudere il momento cinematografico perché certo. In realtà, rimanendo sul tema della romanità, la cosa che più si addice a Ibra è il famoso cavaliere nero di Proietti. Non so se poi ne possiamo recuperare un pezzettino, è un po' lunga. Ma insomma la banda dell'ambasciatore adesso proviamo ad attrezzarci, adesso proviamo ad attrezzarci. Il cavaliere nero è stupendo. Adesso proviamo ad attrezzarci, che Andrea Roccabella, vediamo se ce lo recupera, se no è un po' lunga, però se no magari ma fa niente, tempo ne abbiamo fino alle 19, voglia. Invece mentre cerchiamo il cavaliere nero, Conte. Allora, Mourinho spia il taccuino degli avversari e Conte in casa del Milan. Franco, com'è sta storia? No, devo dire, guarda, che la dichiarazione sul conto di Gattuso è storicamente e calcisticamente perfetta, obiettivamente. I risultati del Milan dell'anno scorso, un punto dalla Champions, dopo che era stato destabilizzato lo spogliatoio per la lite tra Leonardo e Gattuso, sono, come dire, scolpiti nella pietra. Aveva fatto però Franco, l'hanno capito tutti tranne la proprietà del Milan. Cioè, quella ho era una capito, ma se, la proprietà, ma se la proprietà non sa di calcio... non sa di calcio, diciamo che non ha tanta esperienza, che dire che Maldini e Bob non sapevano di calcio, se no, intendi la questo proprietà, la proprietà parlando. Vabbè, sì, ok, la proprietà sì, beh, però non credo sia stato mandato via la proprietà, è stato mandato via da chi gestiva il fronte sportivo, diciamo, della, che della proprietà. Non hanno fatto niente per trattenerlo, perché esatto. Poi probabilmente il messaggio che è stato mandato, cioè puntiamo tutto sui giovani, spaventato tantissimo Gattuso, che ha fatto un passo indietro e ha fatto una cosa rara, cioè sai, tante volte si dice il tesserato ha rinunciato a dei soldi e invece non è vero, lui lo ha fatto ed è veramente una cosa rarissima nel caso. Non solo, ma lui ha detto in anticipo a me e a molti colleghi che avevano con lui confidenza quello che poi è accaduto, e cioè lui ha detto guardate che se si fa tutti giovani si finisce male. Ed è andata proprio così. Non è una previsione impossibile da centrare quella, perché non si è mai visto una squadra fatta solo di giovani, per quanto di talento, e talento qui possiamo discuterne, insomma. Però una squadra di soli giovani che combina qualcosa non si è vista. Soprattutto un progetto del genere poteva avere senso qualche anno fa. Nel senso, certo, qualche anno fa, certo. Dopo il Milan, diciamo, delle vacche grassissime, si poteva e forse si doveva impostare un percorso tipo Manchester United di Ferguson di ormai di 32 sì, anni. Sì, ma fa. Dovevi avere dei punti di riferimento, Pier. Cioè, sì, dovevi avere uno spogliatoio. No, cioè, voglio dire, oggi finalmente per la prima volta, Pioli oggi ha raccontato per la prima volta che al ritorno dalle vacanze la società si è fatta sentire, cioè il famoso cacciatone di Maldini a Leao, Calabria e compagnia cioè avevano, vi ricordate, dopo la partita di Bergamo avevano messo dei post in cui uno ballava, l'altro festeggiava il compleanno in ritardo. Voglio dire, ma questo, voglio dire, è la conseguenza di questa cosa qui. È la forma che diventa sostanza, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, compresa quella storia dei telefoni nello spogliatoio, eccetera, eccetera. Fatemi chiedere ancora una cosa a Fabrizio Biasin, che poi devo salutare. Mi commenti l'1-1 sul mercato tra Juventus e Inter dopo Lukaku, che ha portato in vantaggio l'Inter, ha pareggiato la Juve con Kulusevski? Sì, ha pareggiato perché la Juve in questo momento si può permettere di fare un investimento da 40 e passa milioni su un giocatore che poi ha preso una decisione, cioè è stato il giocatore che effettivamente ha scelto la Juventus. L'Inter è vero che aveva la voglia e l'intenzione di puntare su questo giovane a partire dal prossimo giugno perché piace tantissimo ad Antonio Conte. Questa volta ha vinto la Juventus, che porta a casa un giocatore che dal punto di vista dell'ingaggio può rientrare nei parametri, perché ricordiamoci sempre che la Juve in questo momento ha un monte ingaggi esagerato. L'Inter ha una necessità diversa a gennaio, cioè prendere un centrocampista che invece sia già prontissimo in questo momento, e vediamo se riesce ad arrivare a questo centrocampista. I nomi che sappiamo sono quelli di Vidal piuttosto che Eriksen, anche se mi sembrano due nomi molto complicati, perché è veramente difficile portare a casa questi giocatori. L'intenzione c'è tutta, vediamo se si riesce ad accontentare Antonio Conte. Sì, sai benissimo che Vidal prende 8 milioni l'anno a Barcellona, sono tanti anche soldi. Questo è un problema non indifferente effettivamente, perché è esattamente un fatto di filosofia, cioè Kulusevski è fortissimo e secondo me la Juve ha fatto un grande colpo. Però è chiaro che l'Inter, nella situazione nella quale si trova in questo momento, con la voglia che ha e anche la pressione che mette addosso a tutti Antonio Conte, deve fare un acquisto pronto più subito, hai ragione. Sì. Lo è, per carità, però in ogni caso Capitale è un giocatore che se lo metti lì ti dà subito tutto quello che può. Tra l'altro ha segnato ieri, Vidal diventa un problema ulteriore, perché mi sembra che Valverde, al di là delle intenzioni, non voglia farlo partire, e lo capisco pure, perché insomma è un giocatore che è già pronto. Guarda Fabrizio, nel salutarti, poi ne parliamo di questa partita. Peraltro Barcellona è anche in un momento non semplicissimo, appare Real Madrid, era pareggiato 2-2 contro l'Espagnolo, ultimo in classifica al derby, quindi è in un momento critico. Sì, sì, no, non è semplice, ripeto, io non credo che ci sia tutta questa volontà da parte del Barcellona di farlo partire, e quindi io credo che stiamo ragionando su un altro giocatore. Vediamo se si può fare questo miracolo Eriksen. Io lo definisco miracolo, perché se l'Inter riuscisse a prendere quel giocatore, stiamo parlando di uno dei centrocampisti più forti in assoluto al mondo. Sì. Se ci riesce, fa veramente qualcosa di notevole. Certo, ma io su Eriksen vedo un altro terreno di guerriglia sportiva tra Juventus e Inter, peraltro. Grazie Fabrizio, ti lascio andare ai tuoi impegni. Io invece dal punto di vista, voglio sentire i professori di comunicazione Pardo e Ordine, perché Pierluigi, Kulusevski, la Juventus ha fatto un grande acquisto di prospettiva, eccetera eccetera, però è un giocatore su cui l'Inter si è spesa molto dal punto di vista della, così appunto, della comunicazione. Lo sapevano anche i Sassi che interessava all'Inter. La Juventus è arrivata lì a fare spente, trac, ha preso. Allora, se posso dire io la mia, vai. Vi dico che parlando con uno dello staff mi è parso di capire che ha avuto anche, diciamo, un peso il fatto che Kulusevski non è assolutamente convinto di poter giocare nel 3-5-2 di Conte, e quindi già questo era una sua perplessità. Poi si sono aggiunte tutte le altre, quelle naturalmente legate ai soldi, al contratto, al prezzo pagato e tutto questo. Però c'è anche questa che non ha avuto, non è stata decisiva, però ha avuto la sua parte. Sì, no, ma le ragioni le possiamo scoprire, le possiamo trovare diverse, Pierluigi, però il fatto che comunque l'Inter si fosse mediaticamente così esposta, si è scritto da tutte le parti, lo si fa da mesi che Kulusevski interessava, insomma, è chiaro che queste scaramucce di mercato iniziate con Lukaku e poi tra Inter e Juventus, ne abbiamo parlato a lungo anche quest'estate, no Pier? Beh, è abbastanza normale, nel senso che l'Inter in questo momento dal punto di vista economico è la cosa più vicina alla Juve che esista nella Serie A. Dal punto di vista tecnico c'è giustamente anche la Lazio, ma se parliamo di prospettiva economica, di possibilità di fare grandi colpi, insomma è chiaro che Inter e Juve sia in un momento in cui si cominciano a marcare a vicenda. E io credo che alla fine sia stata la soluzione più logica, nel senso che la Juve aveva bisogno di un colpo di prospettiva, e non che alla Juve non interessi questo campionato, secondo me le interessa e lo vuole vincere a tutti i costi, però è chiaro che la Juve sta facendo un percorso, vince il campionato da 8 anni, vuole crescere a livello europeo, sta crescendo di anno in anno il suo fatturato per essere una big del calcio mondiale, ci sta una logica un po' più di ampio respiro rispetto a quella dell'Inter, che invece si trova in una situazione potenzialmente straordinaria, ma direi veramente da hic et nunc, cioè adesso, qui e ora deve provare a prendersi questa possibilità, e quindi secondo me è abbastanza ovvio come soluzione. Poi è chiaro che insomma, a Conte avrebbe fatto piacere prendere pure Kulusevski, però ripeto, io penso che l'Inter debba concentrarsi su un colpo da presente immediato. Cioè comunque tu dici, per ogni giocatore che c'è sul mercato questa disputa per me è una win-win, te lo dico sinceramente, se io ho fatto il colpo che doveva fare, è chiaro che all'Inter avrebbe fatto comodo Kulusevski, però credo che all'Inter serva un giocatore in questo momento più pronto per i prossimi 4 mesi. Ecco. Allora, salutando Franco Ordine, gli chiedo se è d'accordo con Capello che dice che con Vidal Inter assolutamente da scudetto. Sì, sono d'accordo assolutamente, intanto perché è un maestro, intanto perché è uno che ci capisce, uno di quelli che non ha fatto ironia assolutamente su Ibra, e poi perché secondo me aggiungo alle valutazioni di Pier la necessità, l'esigenza assoluta della Juve di preparare il ricambio generazionale, perché lui hanno una rosa molto datata. Cosa fa domani Ibra, Franco? Secondo me entra dopo, cioè una mezz'oretta per i 65.000, insomma. Sì, ma anche per eventualmente aggiustare il risultato, perché teniamo conto che Milan quest'anno in casa ha vinto soltanto con Brescia e Spalle. Sì, non possiamo dimenticarlo, ma lo sanno perfettamente anche loro, mio caro. Grazie Ciccio, buon lavoro. Saluti. Ciao. Pier, tu resti ancora con me, vero? Certo. Sei all'Olimpico questa sera? Sì. Bella partita. Sono sul divano, quindi volevo già organizzarmi. Tra poco mi porterò all'Olimpico, bella partita. Col divano vai? Ti fai portare anche il divano? No. Ma non lascia fare. Ah, vabbè. Però bella partita stasera. Sì. Bella partita. Ci fermiamo un istante, ma torniamo e andiamo appunto sulle romane, perché come dicevo in apertura, ma lo saprete, la Lazio passerà la notte della Befana con la signora e con la beneamata. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. Tutti convocati. Inzaghi, un sì o un no secco le chiedo. La Lazio è da scudetto. Ma la Lazio da scudetto, noi la nostra prima cosa è quello di cercare di crescere giornalmente. Adesso è normale che dopo tutte queste vittorie, dopo due trofei vinti in 6 mesi, ci si aspetta di più, ma anche noi stessi lo sappiamo che le nostre responsabilità sono cresciute. Noi cercheremo di andare avanti con questo passo, con questo ritmo, sapendo che il campionato italiano è molto difficile e oggi insomma la testimonianza della partita di Brescia. Scontata la supercazzola di Inzaghi, però intanto siamo a 9 vittorie, così come Eriksson con quella Lazio là. E allora lo chiedo a Massimo Caputi, responsabile delle pagine sportive e Messaggero, se la Lazio da scudetto o no. Risponda con un sì o con un no, Caputi. Buongiorno. Sì. Buongiorno, buon pomeriggio. Rispondo ciao, con ciao, un sì. Ciao, per Luigi, auguri. Rispondi con un sì. Sì, ma guarda, io direi che la domanda è questa, cioè, o meglio, la tua domanda è stata chiarissima. La classifica, i risultati, come tu hai ricordato, 9 vittorie consecutive, dicono che la Lazio è in lotta per lo scudetto. Se poi noi dobbiamo fare una valutazione, può lottare per lo scudetto paragonando, diciamo, la potenzialità della rosa dell'Inter e della Juventus nei confronti della Lazio, è chiaro che è la sfavorita rispetto a queste due. Però oggi la Lazio è da scudetto, anche perché vince da grande squadra le partite che gioca male. Cavolo, ma vince anche con fortuna, perché oggi a Brescia probabilmente non meritava i tre punti. Brescia, tra l'altro, ha giocato per gran parte della partita in, in inferiorità numerica, espulsione di Cestani in occasione del rigore di Immobile, però, roba che ti può stendere. Invece ha resistito fino alla fine. Però, Carlo, guarda, io sul fatto dell'immeritato, cioè, voglio dire, quella roba lì non è casuale, tanto più che poi si sta ripetendo così tante volte il gol negli ultimi minuti, la capacità di reazione, che non è casuale. Il gol del 2-1, che in effetti è un gol che nasce da un lancio di 40 metri, da una spizzata, però lì ci sono ci sono quattro cose giuste. Cioè, è vero che è un gol, non è il gol più bello della storia del calcio, però c'è un lancio di 40 metri, c'è una prima spizzata di testa, c'è una sponda di Caicedo che rimane lucido e le dà Immobile, e c'è Immobile che mette il pallone dell'unico posto dove il portiere non poteva arrivare. Cioè, mi conforto con dei numeri che immagino abbiate anche voi. Comunque, 12 gol negli ultimi 15 minuti, 6 gol nel recupero. Soprattutto tanta rimonte, perché poi fuori dalle sconfitte c'è anche per esempio dallo 0-3 al 3-3 con l'Atalanta, che è stata un po' la partita che ha cambiato il segno della stagione della Lazio. Le vittorie fuori casa tutte per 2-1, ormai il risultato fuori casa classico della Lazio, campi complicati, perché Brescia non è esattamente terza alla classifica, ma questa squadra ha vinto a Cagliari, dove Cagliari che non perdeva da una vita, ha vinto in casa del Milan, che comunque insomma non era semplicissimo sulla carta, ha vinto a Firenze in un momento in cui la Fiorentina stava bene, ha vinto col Sassuolo, quindi ha battuto due volte la Juve, è l'unica che ha battuto la Juve, quindi la risposta alla tua domanda è sicuramente sì. Poi Ma immagina se allo Tito venisse voglia di fare un blitz sul mercato, insomma, convinto dalle stelle. No? Lo Tito il blitz sul mercato li deve fare, è anche oggettivamente, infatti la domanda che avrei fatto oggi a Inzaghi, seguivo il post partita, è come si migliora questa squadra, nel senso che è vero che sicuramente la Lazio non ha la profondità della rosa della Juve e che quindi sul mercato per essere competitiva dovrebbe fare qualcosa. Però non è neanche facilissimo, secondo me, migliorare l'altro. Però Pierluigi, se tu mi fai la domanda, la Lazio si può migliorare? Io ti dico sì, perché se entrano Anderson e Gioni, la migliori. Sì, certo, la migliori in profondità. Profondità nella non qualità. Non si può dire che non si migliora, perché se tu sei costretto a far entrare Anderson, con tutto il rispetto... Ma nel senso che in questo momento è un ingranaggio talmente perfetto che è quasi difficile toccare gli equilibri. Secondo me il miglioramento è soprattutto nell'aumentare la profondità della rosa, cioè nel dare d'accordo. No, perdonami, non volevo interromperti, però voglio dire Inzaghi e Lotito, a mio avviso, al di là delle apparenze e delle dichiarazioni, sanno che questa è una partita dove la Lazio ha vinto rischiando di non vincere e accorgendosi che quando ti sono mancati per la prima volta due giocatori contemporaneamente importanti come Leiva e come Luis Alberto, tu qualcosa hai sofferto, qualcosa nel tuo gioco ne ha risentito. E allora, nell'onestà dello spogliatoio, dell'interno della Lazio, se tu oggi sei arrivato a quel punto e ci vuoi rimanere, io credo che gennaio possa essere un'opportunità per migliorare la Lazio. Ma sicuramente, e io sono anche abbastanza convinto che faranno qualcosa, perché comunque senza follie, io credo che la gestione dello Tito oggi debba essere rivista con una luce diversa rispetto a quella al pessimismo e alle tante critiche che ci sono state. Poi le critiche possono essere state nei primi anni soprattutto per come ha gestito certi rapporti, ma dal punto di vista della gestione è vero, l'ho detto mille volte, che questa è una squadra che non fa il colpo di mercato da 70-80 milioni di euro, anche perché forse non ne ha la possibilità da punto di vista. Spesso li fa tenendo i giocatori, e quando vende i giocatori li vende al momento giusto e li vende bene, perché insomma, ricordate Biglia, per fare un esempio, è stato venduto benissimo ed è stato sostituito ancora meglio con Lucas Leiva, che era proprio il suo erede naturale. Quindi questa capacità, ci metto anche Tare ovviamente al centro del progetto con la sua conoscenza del mercato internazionale, e insomma, secondo me, guarda, io a memoria ricordo un solo giocatore che ha sbagliato clamorosamente pagando un sacco di soldi, è stato Zárate. Poi tutti gli altri, insomma, sono arrivati, sono valorizzati, sono stati venduti, sono stati tenuti anche facendo sacrifici, perché sono due anni che si dice che Milinkovic-Savic deve andare via. Quindi, morale, siamo d'accordo sul fatto che Lotito potrebbe sfruttare l'occasione di questa finestra di gennaio se non altro banalmente per blindare la Champions League dell'anno prossimo, che comunque Quattrini ne porta. Io sono d'accordo su questo. Poi il fatto che la Lazio vinca spesso, così spesso negli ultimi minuti, continuo a pensare sia legato a filo doppio a una condizione fisica straripante che evidentemente l'interruzione non ha intaccato più di tanto. Stasera Roma-Torino, andiamo sull'altra romana, Roma-Torino, che Pardo racconterà per DAZN, che è praticamente, Massimo, il debutto della nuova proprietà giallorossa di Friedkin. Sì, un debutto, diciamo, per modo di dire, ufficioso, perché, ufficioso che diventerà ufficiale. Esatto, diciamo che tutto lascia pensare che entro la fine di gennaio o comunque a febbraio si dovrebbe chiudere, e quindi diciamo ufficiosamente è già una nuova, potrebbe iniziare una nuova era o è iniziata una nuova era. È una partita difficile, perché comunque il Torino in trasferta va meglio che in casa, come dimostrano le ultime tre partite, perché comunque devi vincere, e il Torino, diciamo, si trova meglio quando le partite le fanno gli altri rispetto a quando è costretta a farla lei. Però insomma è chiaro che se la Roma è una squadra ambiziosa, se la Roma è la squadra, la bella squadra che abbiamo visto in questi bellissima mesi, tratti, bellissima. Quindi io credo che insomma è evidentemente favorita la squadra di Fonseca, ripeto, però è una partita da vincere con mettendoci tanta concentrazione, tanta attenzione e determinazione, perché se no non la si porta a casa. Pierluigi avrà già preparato la partita, immagino, quindi potenzialmente per la Roma può essere un ottimo periodo, perché i 35 punti che ha la Roma in questo momento sono arrivati dopo una quantità di infortuni mostruosi e con un tempo di, secondo me, abbastanza naturale di rodaggio dovuto a un allenatore nuovo e a tantissime novità di mercato. Questa è una squadra costruita, lo sappiamo, con dei prestiti, con delle occasioni negli ultimi giorni di mercato. C'è tanto talento della Roma, ma è un talento che non era facilissimo mettere in fila, no? Trovare una gerarchia, trovare subito le soluzioni giuste. Quindi secondo me è abbastanza sorprendente, abbastanza clamoroso quello che la Roma è riuscita a fare nella prima parte della stagione, e insomma se avrà un po' di sfortuna in meno sul piano degli infortuni, questo girone di ritorno potrebbe trovare una sintesi ancora più alta. Io vedo veramente le romane in corsa, la Lazio addirittura per lo scudetto, ma anche la Roma in corsa per la Champions League, quindi potrebbe essere veramente un anno fantastico la partita di questa sera è molto importante in questa chiave, Pierluigi, perché poi c'è Roma-Juventus. Allora, se è vero che la Lazio lotta per lo scudetto e la Roma comunque è lì per la Champions, questo mese di gennaio potrà essere veramente determinante per la lotta a scudetto, per capire chi lotterà veramente per lo scudetto, perché l'Inter giocherà con il Napoli domani, giocherà contro l'Atalanta, c'è la Juve appunto che affronta la Roma, il Napoli che affronta la Juventus, e poi c'è il derby a chiusura di gennaio. Io penso che a fine gennaio noi sapremo molto di più su tutte e quattro le squadre. Però vorrei capire, ma dal cambio di proprietà, scusate se insisto, che è ormai in divenire, no? Questo cosa porterà nell'immediato? Cioè porterà qualcosa sul mercato? Porterà qualche rafforzamento? Porterà un immobilismo totale perché si deve fare passaggio di consegne e quindi si devono inchiostrare le carte? Tra l'altro cifre molto importanti quelle che Friedkin verserà a Pallotta. Bene, questo cambio di proprietà cosa porta nell'immediato? Guarda, io penso che al di là delle dichiarazioni di facciata, la Roma si stia muovendo e stia cercando di capire come rinforzare la squadra, perché qua anche insomma da una parte Fonseca ha detto che comunque tre rinforzi, uno per reparto, sarebbero utili. Dall'altra c'è, diciamo, la dichiarazione che dice se non va via nessuno non entra nessuno. Però io credo che siccome poi l'appetito viene mangiando e la Roma è consapevole del fatto che migliorandosi potrebbe non solo blindare l'accesso in Champions, ma magari anche sperare, diciamo, di essere protagonista anche per qualcosa in più. Io sono convinto che qualcosa possa fare, però non credo che si faranno grandi movimenti o ci saranno grandi perché comunque la Roma ha sempre un bilancio da salvaguardare, da controllare, e ripeto, non voglio smorzare gli entusiasmi, comunque finché non c'è la firma, cioè, sappiamo come queste cose. Ricordatevi che quando la Roma passò agli americani, diciamo il famoso closing, così che si chiama, doveva avvenire ad aprile e poi invece fu fatto ad agosto, cioè, perché poi quando si sta lì per chiudere ci sono tutti gli avvocati, guardano le postille, c'è scritto questo, non stiamo parlando di 2 euro, stiamo parlando di c'è diverso addirittura sostanzialmente, insomma, fermo restando un grande valore che sicuramente la Roma, io credo soprattutto potenzialmente, insomma, nel calcio moderno, io credo che quel nome che racconta una città così straordinariamente conosciuta nel mondo sia veramente interessante, così come è stato interessante per i catarioti e Parigi, no? Quindi io credo che questo sia, lo penso da sempre. Poi capire che cosa cambierà fra la gestione Ballotti e quelle tritte, questo è difficile dirlo perché lo scopriremo solo vivendo, insomma, però potenzialmente il trend è fortissimo. Io penso che il tifoso della Roma da una nuova proprietà, tutti i tifosi da una nuova proprietà si aspettano, diciamo, un passo in avanti, un salto di qualità. Io credo che per il tifoso della Roma quello che è importante con l'arrivo della nuova proprietà è non essere angosciati ogni anno da qual è il pezzo pregiato che va via. Io credo che se la nuova proprietà cambierà questo trend, sarà già molto più nei cuori dei tifosi. Sì, sì, certo, senza dimenticare che nell'immediato, insomma, arrivare con una Roma in Champions oppure con una Roma fuori dalla Champions, una certa cambia. Differenza la fa. Perché sinceramente io sono fra quelli che pensa che comunque la continuità dei risultati di Pallotta, è vero che non ha vinto trofei, e questo non può essere un dettaglio, però la continuità che la Roma ha avuto in questi anni, se guardiamo la storia della Roma, insomma, non è così comune, no? Quindi secondo me non è tutto da buttare via. I tanti piazzamenti Champions, la semifinale contro il Liverpool, la Roma è stata costantemente a livelli importanti, i secondi posti, i terzi posti in campionato. È mancato il trofeo e secondo me è mancato soprattutto in certe circostanze un po' di intelligenza nel rapporto col tifoso, un po' di sensibilità nel rapporto col tifoso. Questo no? È vero, e quello che ha detto Massimo è sacrosanto, secondo me, perché spesso a Roma, l'abbiamo detto mille volte, ha fatto trading in questi anni cedendo alcuni giocatori molto importanti. Grazie Massimo. Ciao Massimo. Grazie a voi. Ciao. Ciao. All in one anche quest'anno, l'ultimo dell'anno? No, quest'anno no, purtroppo, però ti riprometto di farlo nel 2020. Lo diciamo a chi non lo sapesse, che il signor Caputi il 31 dicembre del 2017 sul campo di Monte Catini ha fatto una buca in uno, e c'era talmente tanta nebbia che diceva dove è finita sta palla, dove è finita sta palla, ed era in buca, non la trovava perché la trovava fino a giorno che era in buca. Ciao Massimo, grazie. È la verità, è la pura verità. Ciao. Traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Mertens aveva fastidi, l'abbiamo deciso 2 giorni fa, anzi ieri mattina, fargli fare una risonanza a livello strumentale, avere anche un qualcosa, una diagnosi migliore. C'è un po' di edema, l'inserzione degli adduttori, e abbiamo deciso di mandarlo 2 o 3 giorni a casa, farsi manipolare un po' dall'uomo di fiducia, e tornerà mercoledì sera. Al di là della cartella clinica, questa precisazione su Mertens da parte di Gattuso è opportuna. Ciao Massimo Ugolini. Ciao a tutti. È opportuna. Ciao. Anche perché i dietrologi si erano già scatenati, e Mertens non gioca contro l'Inter perché è un obiettivo di mercato dell'Inter, e allora è stato mandato in Belgio proprio per questo motivo. A parte il fatto che se non stava bene poteva pure stare a Napoli, non c'era bisogno di mandarlo in Belgio. Quello è un altro discorso. Uh-huh. Un altro discorso, che però è una precisazione secondo me corretta, puntuale la tua, perché insomma mi sembra non che sia un mal costume, ci mancherebbe, però ormai però è l'evoluzione, tutti hanno i medici personali, i fisioterapisti di fiducia, uh-huh. C'è un'attenzione, sono piccole aziende del resto, no? Lo diciamo sempre, uh-huh. Quindi come piccole aziende hanno questa tendenza comunque a gestire in proprio o anche i piccoli malanni. Un giocatore, no, facciamo chiarezza, perché ha una clausola rescissoria 10 milioni valida solo per l'estero, Dries Mertens in questo momento, scadenza 2020, quindi o arriva un club che versa con ovviamente il benestare del giocatore, 10 milioni cash al Napoli, oppure Dries Mertens, chi vuole Dries Mertens deve trattare direttamente con il presidente della Laurentiis, il quale non mi sembra assolutamente intenzionato a cederlo ora in Italia, a maggior ragione. Beh, certo che Pierluigi, mille rivoli di mercato, di pregresso, di polemiche, tu deve fare ogni giorno, deve avanzare nel bosco col macete, nella foresta col macete. Sì, io Mertens fuori da Napoli faccio fatica a vederlo, poi magari andrà via, però è veramente un giocatore che in questi anni, per quello che ha fatto, per il fatto di essere a un passo dal record assoluto, insomma, secondo me stiamo parlando di un giocatore enorme che ha mostrato una napoletanità indiscutibile nel rapporto con la città, nella scelta di vivere in città, nei comportamenti in campo, insomma, mi spiace che nell'ultimo periodo ci sia stata qualche dichiarazione e ovviamente anche qualche prestazione non all'altezza, perché poi ci sono anche le responsabilità di altri interessati come di altri giocatori della squadra, però insomma stiamo parlando secondo me di un giocatore, poi Massimo confermerà o smentirà, che secondo me in questi anni ha dato proprio è stato un quasi capitano, dai, passami questa espressione, per quello che ha fatto, per come ha abbracciato il progetto Napoli. Napoli è una città, questo l'ho detto anche De Laurentiis mille volte, è una città che nella quale viene chiesta un'adesione anche ideale alla città, al popolo che rappresenti, non è semplicemente un club per il quale sei tesserato. Secondo me Mertens questo l'ha interpretato con lo spirito giusto. Sono d'accordo, aggiungo che i tempi di Sarri, che poi i tempi di Sarri sono 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, i paragoni con i grandi attaccanti europei insomma, si facevano ogni settimana, adesso non dico il paragone con Messi, che mi sembra una bestemmia a qualsiasi tipo di livello, però un giocatore che ha avuto una frequenza, una costanza di rendimento impressionante in un ruolo che non nasce suo, quindi d'utilità, qualità, quella scugnizzeria che comunque tanto piace, perché è vero quello che dice Pierre, qui c'è un'identità, cioè si richiede anche la forte identità non col progetto ma con la città. Certo, chiaro. Da questo punto di vista. Senti Massimo, domani sarà curiosamente il primo duello tra Conte e Gattuso, uno su una panchina e uno sull'altra, sono affrontati un sacco di volte in altre vesti, ma da allenatori mai. Ecco, ti chiedo, com'è cambiato il clima a Napoli dopo il casino, Ancelotti, Gattuso, la fatica delle prime due partite, quella vittoria soffertissima, le vacanze, insomma, com'è adesso l'aria? Guarda, l'aria che si respira è a Castel Volturno è molto più serena, è cambiato tanto anche dal punto di vista del lavoro, perché oggi hanno fatto allenamento di vigilia 2 ore in campo, quindi metodi anche completamente diversi, una partecipazione differente rispetto a quello che era l'approccio di Ancelotti, e non sto dicendo che sia meglio o peggio, comunque hanno cambiato registro, cioè secondo me è lui, cioè Gattuso è l'allenatore giusto per questo tipo di squadra, cioè come dire, Ancelotti era il professore universitario che si trova in una cattedra al liceo, con tutto il bene che si vuole a questo gruppo e il rispetto che si porta a Carlo Ancelotti, evidentemente poi alla lunga queste differenze le hanno scontate tutti. Gattuso mi ricorda il primo Sarri, il primo Mazzarri, insomma è un allenatore di temperamento, estremamente coinvolto nel progetto, molto diretto, secondo me la persona giusta per stimolare questo gruppo che evidentemente persi per strada un po' di leader, penso al Biol, penso a Pepe Reina, anche smarrito una propria identità, forse non ce l'ha mai avuto, capito? Insomma, estremamente codificato sui principi di gioco di Sarri. Sì. Bisogna capire però dentro lo spogliatoio che succede, Massimo, perché non credo risolto. No, non è tutto risolto, perché non può essere risolto, perché le questioni sono ancora aperte, cioè i rinnovi di Milik, di Zielinski, di Maximovic, le pendenze Mertens e Caglion. Però da questo punto di vista, ecco, diciamo che Gattuso, l'impressione che sto raccogliendo qui a Castel Volturno, è stato bravo a catalizzare l'attenzione sul campo, ecco, in questo momento. Poi è ovvio che ci sono delle situazioni che secondo me, non dico che siano insanabili, ma saranno difficilmente recuperabili, cioè, ecco, altre questo voglio dire. Fare. Questo voglio dire, cioè secondo me, al di là del fatto che sono d'accordissimo su Gattuso, il temperamento, per carità, il temperamento è perfettamente in linea con squadra, città, progetto, quindi ci sono tutte le tutti gli indizi di un possibile successo da questo punto di vista. Troppe situazioni complicate dal punto di vista societario, secondo me, troppi contratti in scadenza. Questo, secondo me, rimane come ragionamento in una gestione, l'abbiamo detto mille volte, che è stata in questi anni assolutamente illuminata, positiva, illuminata. Perché insomma, chi discute De Laurentiis, secondo me, in assoluto, nel complesso di quello che ha fatto, sbaglia, perché è prevenuto, cioè, tutto. Alcune dichiarazioni a me non sono piaciute, lo dico molto sinceramente, sì, alcuni modi non mi piacciono, però la gestione complessiva è una gestione vincente, non c'è da discutere dal punto di vista economico e dal punto di vista sportivo. Quest'anno secondo me sarà un po' un'ingenuità aver cominciato la stagione con così tanti nodi ancora da sciogliere, perché comunque alla fine puoi avere due o tre giocatori importanti in scadenza, ma non ne puoi avere così tanti e così tante situazioni. E se ce le hai, poi forse quelle dichiarazioni lì, sono famose marchette in Cina o robe simili, non aiutano. Già da Allan l'anno scorso, un anno fa, insomma, troppi problemi che si sono trascinati senza essere risolti. Sì, assolutamente. E questo il Napoli lo ha pagato, evidentemente bisognava fare la rivoluzione che verrà fatta a giugno, andava anticipata di un anno, perché a giugno probabilmente Koulibaly partirà, Allan insomma o lo sanano o comunque insomma è un giocatore che vuole, che chiede giustamente un forte adeguamento, che sta raccogliendo l'interesse di un paio di club all'estero, quindi vero Massimo, anche, colpevole anche ritardo nella programmazione di questa stagione che ha influito sui risultati. Grazie, diciamo, Massimo. Diciamo che secondo me si è voluto sfruttare il nome di Ancelotti, però bisogna dare anche Ancelotti la libertà per poter operare a un certo livello. Ecco, questo l'anno scorso abbiamo detto un miliardo di volte, l'anno prossimo vedremo il primo Napoli di Ancelotti. Di fatto il Napoli di Ancelotti non l'abbiamo mai visto, perché è rimasto comunque questo gruppo che lui ha ereditato da Sarri e che andava profondamente ristrutturato. Grazie Max, presto, buon lavoro. Ciao, Massimo Golini, saluto ciao. Anche a te Pierluigi, ci sentiamo domani, ti lascio, portare il divano all'Olimpico, mi alzo dal divano, ecco, anziani, smettilo. Bello stadio, sentiamo domani alle 2 naturalmente tutti convocati. Ciao Pierluigi Pardo. Vedo che c'è Valeria Bernardi che sostituirà in regia, si alza il cartellone, esce Andrea Roccabella, entra Valeria Bernardi. L'aspettiamo e aspettiamo voi subito dopo il GR, quando parleremo di Juventus, e state lì 800240024, numero verde per le chiamate. Parleremo non solo di Juventus ma anche di mercato spagnolo, perché Vidal e Podibò e poi Real Madrid e Barcellona che si contendono il titolo, eccetera eccetera eccetera. Vi aspetto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Per valorizzare un buon piatto scegli il vino giusto. Per valorizzare la tua casa scegli l'arredo migliore. Per valorizzare i tuoi risparmi scegli che banca. Conto Deposito, 1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata a 6 mesi. Offerta valida per vincoli effettuati entro il 29 febbraio 2020. Con il supporto dei nostri consulenti trova le soluzioni di risparmio e investimento adatte ai tuoi obiettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, non costituisce una sollecitazione né una raccomandazione di investimento. Fogli e documenti informativi su chebanca.it. Che banca, gruppo Medio Banca. Cerco donna sexy, tenera e divertente e avventurosa e amante del calcio, ma che mi faccia anche un po' da mamma. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio Panda da 99 euro al mese per i primi due anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione Make Up i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645, TAEG 939, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Fino al 31 gennaio, info su fiat.it. Doc 12 Melos, Doc Urban Melos, Doc Eco 3. Tre nuovi monopattini elettrici, tre soluzioni green per vivere la tua città su nilox.com. Tutti convocati. Ed eccoci tornati, 800240024, numero verde come sempre ogni domenica insieme fino alle 19. Valeria Bernardi in regia, sempre Edoardo Lavezzari il nostro autore, Giovanni Capuano che torna domenica prossima e saremo tutti insieme dalle sempre 17-19. Nulla cambia. Comunicazione e servizio finite qui. Devo dire qualcos'altro? Ah, Genoa-Sassuolo 0-0 al settimo del primo tempo. Risultati di oggi: la Lazio che suona la nona, vince a Brescia 2-1, Balotelli e poi doppio Immobile. Il Verona che vince 2-0 con la Spal, anche qui gol di Pazzini, siamo ai goleador ex milanisti e Dantan, Balotelli, Pazzini, segna anche Stepinski. Verona che sta toccando con le mani la zona Europa League. Vero Simone, buongiorno, chiama proprio da Verona. Sì, buonasera, sono Simone da Verona. Buonasera. E volevo farmi una domanda, non so se forse anticipo i tempi. E non ho ancora sentito parlare in maniera approfondita né di Atalanta né di Napoli. Di Napoli, comunque, con la qualità della rosa e forse il cambio di allenatore, avrebbe la possibilità di rientrare quantomeno al quarto posto, che comunque alla fine terzo o quarto basta arrivare in Coppa Campioni. Sì. E comunque a mio avviso l'Atalanta, che nonostante abbia passato il turno di Coppa Campioni, quindi dovrà preparare minimo altre due partite molto difficili, è una squadra che l'anno scorso ha dimostrato che sul finire di stagione è capace di tirare fuori quell'energia, diciamo modello Juventus, che le dà la possibilità, se vuole anche lei stessa, di fare un filotto di 5-6 vittorie. Sì. Quindi a mio avviso ritornare di nuovo dentro in Coppa Campioni. Guarda Simone, di Napoli abbiamo parlato poco fa, ma il discorso è sempre quello, cioè ci sono troppe grane pregresse, l'abbiamo detto anche con Massimo Golini, quell'ambiente lo conosce molto bene, prima del GR, troppe grane pregresse. Ora l'avvento di Gattuso certamente positivo, certamente grande impatto, ha cambiato il modo di lavorare, ha rasserenato il gruppo, ha dato nuovi stimoli, nuovi obiettivi, bla bla bla, quello che volete, però io continuo a pensare che in questa stagione un po' disgraziata, in cui si è fatto un errore di programmazione, perché è una squadra di lunga militanza, è ancora grosso modo il Napoli di Sarri, gran parte dei giocatori addirittura di prese Benitez, insomma è un gruppo che sembra un po' esausto. E probabilmente il Napoli andava rifatto la scorsa stagione, ci sono troppi nodi tutti insieme, io non vedo un Napoli in grado di rientrare in quella corsa lì. Quanto all'Atalanta invece, ormai abbiamo finito le prove di maturità, laurea, appello contro appello, l'Atalanta è lì e rimarrà lì a combattere fino alla fine, di questo sono abbastanza, sono ragionevolmente certo. Roberto, buongiorno. Salve, ho visto troppo, ho sentito troppo entusiasmo per la Roma, la nuova proprietà, il fatto che il quarto posto. Io andrei con i piedi molto di piombo, cioè non è detto che la Roma sia quarta così già adesso, deve maturare e conquistarlo piano piano, non è scontato questo quarto posto. No, scontato per nulla, Roberto, però converrà che la prima parte di stagione della Roma, considerate tutte le sfighe, gli infortuni, le cose che ha avuto con un nuovo allenatore, dopo l'addio di Totti, insomma è stata turbolenta, converrà sul fatto che la prima parte di stagione è stata altamente positiva, no? Senza dubbio, anche se avere 10 punti di vantaggio dovrebbe, se non va quest'anno nei primi 4, insomma non lo so quando ci va. Allora stiamo dicendo la stessa cosa, dici bisogna andarci coi piedi molto di piombo, certo. Però se il trend è questo, è tutto molto positivo, molto bello, molto allettante per la nuova proprietà che verrà. Bernardi sta facendo i scongiuri essendo romanista. Vabbè. Allora, grazie Roberto. 800240024. Abbiamo detto, vorrei parlare un po' di Juve. Ma Kulusevski mi sembra un prospetto di grande interesse e quindi è importante che la società ci sia arrivata. Averlo subito non rientra in quello, io posso decidere né giudicare, sicuramente non c'erano le condizioni, però l'importante è che la società sia attenta a questi ragazzi giovani di grande prospettiva e che riesca spesso ad arrivarci per prima. Dunque, abbiamo preso Kulusevski, sono tutto contento. Se l'abbiamo tolto all'Inter e sono ancora più contento. In sintesi, il pensiero di Sarri con Juventus-Cagliari, partita non banale che va a chiudere la settimana di Kulusevski. Professor Guido Vaciago, buongiorno. Buongiorno, buona come domenica, sta? Buona Befana a tutti. Buona bene, Befana, buon anno, buon tutto quello che c'è. Dunque, si chiude la settimana di Kulusevski, dicevamo, con Juventus-Cagliari. A me intriga, l'ho detto prima, sarò anche noioso, il duello in controluce sul mercato tra l'Inter e la Juve, perché sì, insomma, perché su Kulusevski l'Inter si era spesa molto, e poi affari spentissimi, mi confermerà Guido Vaciago, perché nessuno si aspettava, almeno la maggior parte di tutti quelli che fanno il nostro lavoro, affari meno accesi dell'Inter, diciamo, sì, ecco, bravo. Proprio spenti, però avevamo avuto nel mese di novembre delle avvisaglie e qualcosina ai primi di dicembre. Va detto che dai primi di dicembre questo nome era un po' scomparso dai nostri schermi radar, quelli diciamo che monitorano il mercato della Juve. Sapevamo che era un giovane che, come tutti peraltro i giovani interessanti, era nel mirino di Paratici, ma non sapevamo che in realtà Paratici stava intessendo questa trattativa e poi era pronto al colpo finale per anticipare Marotta. Ma fa bene a intrigarti questa vicenda, beh, anche perché poi c'è la storia di Marotta e Paratici, che non sono neanche due qualsiasi, ma sono uno l'allievo dell'altro e l'altro il maestro dell'uno, insomma. No, dicevo, fino a questo momento 1-1, l'Inter ha segnato con Lukaku e la Juve ha pareggiato con Kulusevski. Sì, ma poi ci sono state tante altre piccole manovre contro manovre. Allora, le marcature nel mercato esistono da sempre. Ho letto delle cose proprio in questa settimana che mi sono parse anche un po' esagerate. Io non credo che Paratici segua Marotta o viceversa. Intanto il fatto di aver lavorato per quasi 14 anni insieme vuol dire che un po' il calcio lo vedono allo stesso modo. Sì, certo. È probabile che quindi certi giocatori, certe situazioni di mercato le interpretino allo stesso, nella stessa maniera. Non è strano, no. Dai Guido, che insomma, se c'è un giocatore forte sul mercato, Juventus e Inter sono è normale che si confrontino, esatto, facciamo ma così. Perfetto, certamente, ma sai cos'è la novità vera? È che l'Inter è forte economicamente, l'Inter è una società ben strutturata economicamente, da quando c'è Marotta, a mio parere, è ancora meglio strutturata come organizzazione e quindi può rivaleggiare sul mercato con la Juve. Prima non era possibile perché come era organizzata la Juve, con il tandem Marotta-Paratici, con la potenza economica che cresceva di stagione in stagione, la Juve ha avuto in Italia per certe stagioni un po' campo libero, perché non c'era nessuno che poteva. Cioè, il Napoli di De Laurentiis, se sappiamo come opera sul mercato, ha strategie diverse e anche, diciamolo, una potenza di fuoco diversa. E se no poi per il resto Milano lattava e quindi la Juve sul mercato italiano non aveva rivali, no, non ma aveva chiaro. Rivali, quindi in realtà adesso finalmente e dico finalmente perché il calcio non può, il nostro movimento non può prescindere dalle rivalità e dal fatto che ci siano più squadre ad altri livelli, finalmente c'è l'Inter e adesso assistiamo anche a duelli di mercato. Certo, e il prossimo, a me sembra di averlo già immaginato, hai un minuto di traffico e poi ti rubo un altro paio di curiosità. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24 Tutti convocati. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo, alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. Convocati. Allora, Guido Maccioli, Tutto Sport, attingo alla tua concorrenza per questo. Rompipallone di Gene Gnocchi oggi sulla Gazzetta dello Sport. Segnali che Eriksen finirà alla Juve, è a un passo dall'Inter. Credo sia questo il prossimo obiettivo su cui si confronteranno o scontreranno sul mercato. Può darsi, devo dirti la verità, l'acquisto di Kulusevski rende ancora più abbondante quel settore nel quale si aggiungerebbe eventualmente Eriksen, quindi non so se poi su Eriksen ci sarà questa battaglia così feroce. Devo dire che Eriksen è un giocatore che è nel mirino della Juve fin da quando Barot e Paratici erano ancora insieme e tutti e due alla Juve, quindi non mi stupirebbe che poi Paratici facesse un tentativo. Certo, l'Inter lo vuole subito ed è un vantaggio perché potrebbe pagarlo e quindi prenderlo a gennaio per il Tottenham avvantaggerebbe certamente l'Inter, perché il Tottenham se no lo perde a zero a fine stagione. Se dovesse finire a parametro zero, allora lì sui parametri zero è una bella lotta, perché anche a Paratici potrebbe interessare Eriksen a parametro zero. Significherebbe per la Juve di strutturare quasi completamente il reparto trequartisti, che già Kulusevski mette in qualche modo in certo. In Bernardeschi, cioè Bernardeschi, che fine fa? Bernardeschi oggi, tra le righe della conferenza di Sarri, forse si può leggere il futuro di Bernardeschi, perché Sarri ha ribadito un concetto che eravamo abituati a sentire anche dalle parole di Allegri, cioè la possibilità di inventarsi Bernardeschi mezzala. Oggi Sarri ha detto che ci sta lavorando, che sta lavorato nelle ultime settimane, e secondo me ci sta lavorando proprio perché in realtà come trequartista rischia di avere la strada un po' intasata, perché se Ramsey sta bene e per esempio domani è uno candidato a giocare sulla tre quarti, addirittura scalzando Dybala, che non sta benissimo. Però insomma c'è Ramsey, c'è Dybala, c'è eventualmente Douglas Costa che può interpretare quel ruolo. E potrebbe esserci Kulusevski. E potrebbe esserci Kulusevski da giugno. Quindi insomma, per Bernardeschi forse ripensarsi mezzala non sarebbe male. Devo dire la verità, Bernardeschi, che si è preso un sacco di improperi, a me non è dispiaciuto. Il problema è che non ha giocato da trequartista, cioè nelle partite in cui lui doveva completare il tridente si sobbarcava praticamente tutto l'onere difensivo del reparto, certo. E quindi poi finiva per essere poco lucido in fase conclusiva, siccome negli occhi ti rimane la conclusione sbagliata, il passaggio impreciso. Poi finiva per dire no, ha fatto tutto campista un sacco di volte. Esatto. Allora io ti dico, se questo è il ruolo che in qualche modo in cui si sta evolvendo, i giocatori a volte si evolvono in un ruolo, forse fare la mezzala potrebbe essere interessante, una mezzala ai piedi raffinati. Lui ha sviluppato grande fisico negli ultimi anni, ha perso forse qualcosa in termini di brillantezza, sarebbe una bella mezzala europea di quelle che sanno giocare il pallone. A parte il fatto che è un giocatore che a me piace un sacco, ma questo frega niente a nessuno, c'è anche la disponibilità di questo a farsi un mazzo così da tutto campista, da mezzala, certo. Da trequartista. Ragazzi, cioè, non è facile, tra mille giocatori che o gioco in quel metro quadro lì o non gioco, e no, mai spostato di 20 centimetri, allora sono fuori ruolo. Cioè, trovatene uno che comunque gli dici, ok, buona da bosca da collina, e quindi giochi dove serve. Insomma, non sono in tanti quelli che hanno questa disponibilità. No, soprattutto attaccanti che arretrano. No, lui è un ragazzo disponibile, intelligente, con una sua anche con una sua applicazione. Quindi io credo che debba, questo sì, finire di essere sballottato tra più ruoli, perché poi quello può essere un problema per la sua crescita. Però l'idea di vederlo mezzala non è male. Non è male, troviamogli una casa a Bernardeschi. Grazie Guido, un abbraccio. Grazie a te. Ciao. Che piacere fare gli auguri a Filippo Maria Ricci, buongiorno. Che io ricambio. Ciao. Tanti auguri a voi. Buon 2020. Ah, sì. Feliz fiestas, come dicono qua. Feliz fiestas. Sai cosa ha fatto oggi Balotelli, no? Sì, ho visto. Cosa? Sì, ne abbiamo parlato qui. Ecco. Ma stai parlando degli insulti, fischi, eccetera, eccetera, partita sospesa di nuovo con la Lazio. E sì, poi di quel tweet, il messaggio su Instagram. Messaggio su Instagram, i tifosi che c'erano della Lazio, c'erano oggi a Brescia, devono vergognarsi. Vabbè, lasciamola alle cronache. Io ti faccio notare che Balotelli ha timbrato il anche questo decennio esattamente come quello precedente, cioè suo il primo gol della Serie A del 2010, suo il primo gol della Serie A del 2020. È sempre lì, doveva farne qualcuno in più, io ho sempre creduto tanto. Problema in mezzo. È in mezzo non c'è stata questa continuità, peccato, perché io sono un balotelliano da sempre, un grande patrimonio che purtroppo non ha saputo gestire lui, insomma, molto complicato, una situazione complessa soprattutto a livello psicologico, peccato, ci ha privato di quello che poteva essere un grandissimo attaccante per la nazionale. Beh, in generale. Magari siamo ancora in tempo. Poi speriamo, non sai, guarda, speriamo, però insomma, molto simile a casi precedenti, abbastanza illustri. e peccato, perché veramente un giocatore di talento così, sicuramente il miglior attaccante che abbiamo avuto, no? In questa, dal punto di vista del decennio. Talento, non ho nessun dubbio. Poi adesso cominceranno poi le cose. A insultarci, sì, ma siete i benvenuti a 800 24 00 24, che soltanto sono 10 anni che litigo su Balotelli, litigo, cioè discuto. Io pure sono con te, non insomma. Bene, non arretriamo di un millimetro. Per lui, per noi in chiave nazionale, per tutti quanti. Sì. Andiamo a bomba. Allora, ieri Barcellona non benissimo, 2-2 con l'Espagnolo, ultimo in classifica nel derby, ombre del partito. Prima Luis Suarez, poi Arturo Vidal. Ecco. Detto che diciamo Suarez non verrà all'Inter in questo mercato. Esatto, quindi lo escludiamo, no? Un gol e un assist, no, grande partita di Suarez. E subito dopo Arturo Vidal, che è incredibile. Ha fatto 6 gol, è il quarto marcatore del Barcellona e in 4 partite da titolare con il Barcellona. Mi sembra che sia arrivato a 15 o 16 presenze, però da titolare 4. 6 tiri nello specchio, 6 gol. Non mi sembra male, no? Per un centrocampista. Tre tiri fuori, perché non è che dice poi ha fatto 25 tiri fuori, no, i tiri fuori sono 3, quindi 9 tiri in tutto, 6 gol. E qui, cioè, ovviamente, Valverde non lo vuole mandare via. come non capirlo, come dargli torto, no? Sì, ne abbiamo visti di peggiori. Esatto, cioè lui e tutti gli altri centrocampisti della Rosa hanno fatto 4 gol, Vidal con 4 partite da titolare ne ha fatti 6, ed è per questo che Conte lo vuole, probabilmente, non per i gol ma per tutto quello che porta. Sì. Guarda, su Vidal è molto interessante la cosa, perché lui è praticamente il simbolo di questa faida che c'è a Barcellona, no? Tra i puristi, gli amanti del bel gioco, e quelli che dicono no, adesso dobbiamo cambiare, dobbiamo vincere le partite, no? Sì, anche perché c'è poco da scherzare, siamo a pari punti Real Madrid Barcellona adesso. Esatto, è tornato il grande duello col Madrid, un Madrid solido che invece non si fa quelle, permetti nel termine, no, grandi pippe mentali, sì, su come giocare, porta a casa i punti e bada al sodo. Invece Barcellona ha l'obbligo morale di pensare ad altre cose, obblighi morali, poi. Vabbè, però è così, ai puristi del Camp Nou Vidal dà fastidio, perché lo vedono come un giocatore elettrico, con poco tocco, no? poca propensione al gioco di possesso, e quindi non lo vedono bene, però è fondamentale. E il fatto che Vidal sia fondamentale in questo Barça ci dice che questo è un Barcellona ovviamente diverso da quello che eravamo abituati a vedere. Morale, chi vince? La Liga? No, chi vince il duello tra puristi e mica puristi, Vidal va all'Inter? No, detto che per inciso guadagna 8 l'anno, che non sono due soldi. Voglio vedere Marotta che sgancia 8 l'anno. Allora, io penso all'Inter, mi sembra che ci sia grande fiducia, perché il giocatore vuole andare via, perché giustamente anche lui ha le sue pretese, perché dice appunto io sono il quarto marcatore, cioè ogni volta che entro succede qualcosa, posso girare le partite così, però alla fine ha fatto 4 partite su 19 da titolare, non va bene, e quindi lui vuole andare via. Non ha un gran rapporto con Valverde, anche se poi Valverde le sue qualità le conosce e le apprezza, no? Però poi lo fa giocare poco, e quindi lui vuole andare via, l'Inter lo vuol prendere a tutti i costi. Io penso che sia ancora in vantaggio l'Inter, però è un giocatore fondamentale. Il Barcellona ha prestato a Legna al Betis, non è che ha tutti questi giocatori. Adesso Arthur è rotto da un po', c'ha la pubalgia, è andato 2 volte a fare snowboard, che è la cura che tutti, no? Certo, che tutti prescrivono, chi ha la pubalgia sono tutti sulle piste a fare snowboard. Esatto, capito? Al Barcellona succedono queste cose strane, e per cui insomma non ha tanti giocatori Valverde, infatti ha detto da qui non si muove più nessuno, il suo peso è molto relativo. Ripeto, io continuo a pensare che l'Inter sia in vantaggio perché ha l'appoggio del giocatore, che è fondamentale, però Vidal in questo momento per questo Barça è un giocatore importantissimo. Diciamo che è più importante Vidal rispetto a Todibo, che dovrebbe andare al Milan. Ma sì, Todibo può anche andare via, e lì si discute solo sul fatto dei sei mesi o no, cioè del riscatto, a che percentuale il Barcellona lo vuol tenere, ma lui stesso, da quello che mi dicono, è lui stesso che vuol tornare al Barcellona, no? Con tutto il rispetto per il Milan, vuole un po' usare il Milan per questi mesi, giocare, perché qui non gioca mai. Ricordiamoci, poi stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 10 partite nel campionato francese e 4-5 qui in Spagna, basta, per cui insomma adesso io vabbè che è giovane, però insomma non è che ha giocato già tre campionati, poi non è che dice viene adesso lo prendiamo, diciamo, per provarlo in Serie C, così deve venire a far bene immediatamente nell'università della difesa, che è il campionato italiano, in una squadra in grandi difficoltà come il Milan, per cui puntare su uno che ci vuole una presenze, bella incoscienza, insomma, no, poi dico magari trovano il fenomeno, però nessuno lo sa. Sembra molto bravo, però è tutto da vedere. Per cui lui vuole sfruttare giustamente l'opportunità, e quindi anche lì il giocatore verrebbe molto volentieri al Milan, però poi vuole tornare a Barcellona, e il Milan non è che sta lì a fare il piacere agli altri. Certo, vieni, te lo faccio giocare, questo lo fai con esatto, poi te lo ridò quando un giocatore è pronto. Sì, te lo valorizzo, poi te lo restituisco senza nessun problema. Un'ultima cosa in 30 secondi, questo Lobotka, cioè Celta Vigo, che interessa al Napoli? È un giocatore interessante, non penso che cambi il Napoli attuale, è un buon giocatore, però insomma, se lo prendono a buon prezzo può essere utile, però nessuno si aspetti un assoluto fenomeno. Grazie Filippo, keep in touch, teniamoci in contatto. Che ovviamente saranno caldissimi i prossimi giorni di questa settimana. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo parlando di una dinastia che sembra alla fine. The End, per cosa? State con noi. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Lancio di Predi, intercettato! Logan Ryan, un ex giocatore dei Patriots, mette il sigillo definitivo! Touchdown Tennessee Titans! 20-13 il punteggio a favore di Tennessee! Così, a pelle, mi rifiuto di pensare che possa finire la carriera di Brady con un intercetto, sinceramente. Però è chiaro che Logan Ryan ha messo il punto esclamativo. Finisce qui la stagione dei Patriots, finisce qui forse un'era, quella di Tom Brady e dei New England Patriots. Vincono i Tennessee Titans, che fanno il colpaccio a Foxborough, finisce 20-13 per Tennessee. This is the end, beautiful friend. Beh, direi che negli Stati Uniti è stata questa settimana che ci ha traghettati nel 2020, è stata tutt'altro che banale. Lasciamo stare ovviamente le cose grandi e importanti, cioè gli eventi politici. È stata la settimana in cui il mondo del basket, ma non solo, il mondo dello sport ha perso David Stern, il commissioner che ha inventato, possiamo dire, l'NBA moderna. E ieri, nella notte, c'è stato il giorno, il momento in cui potrebbe essere finita una storia che dura da 20 anni, da quando, diciamo, Ibrahimovic giocava nell'Ajax ed era ragazzino. Tom Brady vinceva con Belichick il suo primo titolo NFL. Questa notte sconfitta al primo turno di playoff, quello delle wild card, e questa storia che dura da 20 anni ha portato 6 Super Bowl, 9 finali, insomma dei numeri spaventosi, potrebbe essere finita così, con un intercetto sul lancio di Brady nel finale della partita con Tennessee. Ciao Massimo Riani. Ciao. Mi hai fatto, cioè, mi viene il magone iniziare così, però. No, vabbè, magone, sai, quando musicale. Ma sai, quando le storie finiscono, sì, forse ho esagerato, però quando le storie finiscono o sembrano finire, viene sempre un po' di tristezza, poi dai, sai. 800240024, cerchiamo anche di far cassetta, raccontiamo anche delle favole. Esatto. Quindi, finita qui? Brady Belichick, la coppia più bella del mondo dello sport? Non ne sarei così sicuro, perché proprio per il modo in cui è finita, lasciarsi alle spalle 6 Super Bowl vinti, tutte le cifre che hai smentorato tu, una serie di record che ci vorrebbero 12 trasmissioni per raccontarli tutti, in quel modo così triste, se vogliamo, anche se scritto, perché quest'anno era abbastanza evidente che la squadra non aveva abbastanza armi sufficienti per andare molto avanti nei playoff. Magari avrebbe potuto anche vincere ieri con qualcosina in più, ma dubito che sarebbe riuscita poi a sbancare Kansas City. Io credo che ci siano ancora speranze di rivederli insieme. Il problema è uno: Brady, se deciderà di tornare, visto che non pare proprio intenzionato a ritirarsi, lo ha già più o meno detto chiaramente ieri, per rimanere con i Patriots dovrà avere garanzie che la squadra sia una squadra da Super Bowl. Ci sono parecchi buchi da tappare, non sono stati tappati quest'anno, sono stati tappati malamente, con giocatori o non all'altezza o presi con delle scommesse perse forse già in partenza, come quella di Antonio Brown. Era anche la prima stagione senza Gronkowski, un altro dei pilastri di questa dinastia. Quello che non è stato proprio sostituito, i giocatori di cui mi riferivo di non livello sono i tight end che hanno preso, perché Ben Watson, 38 anni, non poteva certo fare la differenza, la Cos e Ito sono due giocatori modesti, e questo ha pesato tantissimo, perché ha lasciato praticamente a Brady l'unica coperta di Linus in Julian Edelman, che è arrivato a fine stagione a pezzi fisicamente e con le difese che lo raddoppiavano, sapendo che non c'era nessun altro in grado di potersi far male. Sono riusciti ad andare avanti tutta la stagione sulla forza della loro difesa senza praticamente mai segnare, cioè vincendo un sacco di partite, forse nel calcio 1-0. Poi però anche la difesa è calata. E poi, insomma, mi sono, prima del programma, ti confesso che la copertina l'ho fatta apposta per Giuseppe Cruciani, che è un ultra dei Pets, no? Volevo farlo piangere. Non posso abbastanza riflettere, cioè rispecchiare in lui. No, allora il punto è questo: ok, Brady va avanti, però la squadra è da rifare, da rifondare, la squadra più anziana dell'NFL, ci sono diverse free agency, eccetera. Immaginare Tom Brady che gioca ancora una stagione barra due, anni 42, lo ricordiamo, con un'altra maglia? Francamente lo vedo difficile. Dovrei andare a una squadra che gli garantisca più possibilità rispetto ai Patriots di vincere un Super Bowl. Rivediamo comunque che il 12-4 quest'anno di Patriots è inflazionato da alcune vittorie contro squadre francamente impresentabili. Il calendario l'anno prossimo non sarà altrettanto facile. Però vai a Los Angeles per cercare di risollevare i Chargers con una squadra francamente che credo non possa essere più affidabile dei Patriots. Vai a Indianapolis, dove in teoria una squadra buona ce l'hanno, e il quarterback è sparito, di Andrew Luck, sono rimasti un po' col cerino in mano anche loro, come i Patriots con Gronkowski a 2 settimane di campionato quasi, diciamo. Dove c'è la leggenda di Manning e tu vai a sovrapporti a quella, finendo la carriera. Per carità, è vero, Joe Montana è andato a chiedere la carriera a Kansas City, cambiando sport, Michael Jordan ha finito con i Washington Wizards. Infatti, quella carogna di Lavezzare, il mio autore, mi ha scritto come Jordan ai Wizards. Ci può stare, per carità. Dipende da lui, dipende dalla famiglia, se hanno intenzione di trasferirsi in California. Quel Michael Jordan era un Michael Jordan che di fatto esisteva solo per il nome, non era più un giocatore in grado di spostare. Questo Tom Brady, non quello di questa stagione, ma in generale ce lo domandiamo. Dai, sono giorni in cui ci domandiamo, Ibrahimovic è in grado di spostare? E adesso Tom Brady che cosa fa a 42 anni? Dove vuole andare? Insomma, si tratta di capire qual è ancora la sua dimensione. Ci sono dei momenti, ci sono stati, ma anche l'anno scorso, non solo quest'anno, in cui sembrava un giocatore un pochino arrivato al capolinea. Però ci sono stati più momenti in cui ha dato ancora l'impressione di poter essere uno che sposta. Lo ha fatto secondo me anche ieri. Il problema è che o non gli tengono la palla nelle mani i ricevitori o sbagliano le tracce perché sono rookie e non sanno ancora cosa devono fare, sì, o non riescono a uscire dai blocchi e poi viene intercettato perché il difensore ce l'hanno sempre davanti. Io credo che sia ancora in grado di fare la differenza in una squadra che però attorno deve avere una quantità di talento tale da poter permettere di esprimere, chiaro, questo talento, chiaro, che ancora e, altrimenti sai che fa? Va, viene acquisito da Stefano Melocaro a Sky a Sunday Morning. Buongiorno Stefano. Sempre una possibilità. Buongiorno, interessa buongiorno. Tom Brady o al limite Giselle Bündchen, la signora Brady? Sì, no, interessano sia in coppia sia presi singolarmente, però meglio in coppia, così gli facciamo portare un vinile anche a loro, a Sunday Morning, li facciamo ballare in studio. Quella sarebbe tanta roba. Intanto faccio, salutando Massimo Riani, gli faccio notare che Milano ha vinto il derby con Cantù 83-75, questa storia di Milano come la vedi? Che da Canturino non me ne va bene una questo weekend. No, insomma, no, almeno a Cruciani gli ha vinto la Lazio, a te proprio zero. Quello proprio non mi sposta molto, diciamo, ecco. No, ho sentito un Messina un po' depresso quel giorno, che parlava più che altro di una depressione generale nell'ambiente milanese. Io spero che non c'è qualcosa nell'acqua, che chiunque viene qua poi non riesce a fare quello che dovrebbe, perlomeno stando a sopravvivere. Mi rifiuto di pensare che di questa fare. Non sia una storia diversa. Mi rifiuto di pensare, perché... Massimo. D'altra parte, ho visto Milano l'altra sera vincere una partita di una fisicità, di una durezza mostruosa con San Pietroburgo, che è ultimo in classifica in Eurolega, ma in Eurolega il livello è alto. Milano, esatto, l'ha portata a casa per grazia ricevuta, gli manca ancora il miglior tiratore Nedovic, che ne gioca uno e sta fermo 10. Mi sembra una storia in divenire, soprattutto con Ettore Messina, non, bravo, può che essere una storia in divenire. Bravo, grazie Massimo, grazie, un abbraccio, ciao a tutti, grazie, ciao. Stefano, mi togli una curiosità, ma domani il tuo programma come si chiama? Vabbè, allora questa tu mi fai felice perché tu mi dai la possibilità di aprire un file proprio, perché Sunday Morning speciale Befana speciale Befana lo fanno sul primo canale della Rai nel 1974. Noi domani facciamo il 6 day, invece che il Sunday Morning facciamo il 6 day morning. Ah vabbè, che classe. Capisci? Ragazzi, cioè, vabbè, ci abbiamo pensato, è dal 22 dicembre che ci stiamo pensando e siamo arrivati al 6 gennaio. Beh, così, 6 day morning. Mamma mia, che talento. Senti, quindi domani mattina dalle 11 alle 14, 6 dei morning. Tra l'altro con un Genta clamorosamente in panchina, cosa impiegabile. Ma d'altra parte io domani, amico mio, sono qui, abbiamo tutti convocati dalle 14 alle 15, quindi... Ah, allora sarebbe stato veramente duro. Senti, volevo dire una durissima cosa, secondo me nella mente di Ettore Messina comunque continua ad agitarsi una grandissima sovraimpressione, proprio che è simile a quella di Ancelotti al Napoli fino a 2 settimane fa, cioè chi me l'ha fatto fare? Tu vedo dici. Proprio degli aerei, sai gli aerei di Monoelica, che porta uno striscione con scritto ma chi me l'ha fatto fare? Tu e dici. Secondo me ogni sconfitta, a parte che ho già vinto, ma ogni sconfitta si leva in volo uno di questi. Allora facciamo così, giovedì sera andiamo a vedere Milano contro Panathinaikos in Eurolega, poi in conferenza stampa tu glielo dici. Può essere va bene, questa è un'idea. Invece tra i roghi australiani che cosa sta succedendo? E poi mi spieghi questa storia dell'ATP Cup adesso. Allora, prima roghi australiani, oggi mi sono messaggiato con un mio amico che vive a Melbourne e mi ha detto che la situazione è veramente, cioè a Melbourne città non ci sono problemi, ma tu respiri aria che puzza di fumo, di incendio, veramente una roba brutta, terribile. Poi basta ovviamente guardare telegiornali, aprire siti internet e si vede tutta una cosa terrificante. Djokovic oggi ne ha parlato e ha detto che insomma all'Australian Open ne mancano 2 settimane, ma evidentemente un po' lui ha fatto il paragone con l'aria che si respira a Pechino quando giocano in Cina loro. Sì. Lì è inquinamento, questa è un'altra roba, forse anche peggiore da un certo punto di vista. E vabbè, insomma, mancano 2 settimane all'Australian Open, ne vedremo. La ATP Cup è un simpatico torneo a iscrizione, nel senso che al contrario della Coppa Davis, che è un torneo per nazioni dove c'è un capitano che ti convocano, Alla City Cup invece va chi vuole, nel senso che ti iscrivi e vai, tant'è che i singolari stanotte li hanno giocati Travaglia e Fognini, e c'è anche Paolino Lorenzi che gioca. Insomma, è un torneo per nazioni in cui l'Italia ha vinto, ha perso la prima, ha vinto la seconda con la Norvegia 2-1. Adesso sì, esatto. Martino. Senti, ma esatto. Ne sentivamo la necessità? No, e tantomeno subito dopo la Coppa Davis. Appunto. Nel senso che è una specie di copia della Coppa Davis, anche se questa è un pochino più easy. Cioè la Davis comunque l'hanno rivoluzionata, mantiene ancora un minimo di dignità di torneo per nazioni. Questo qui è veramente una roba a metà tra un'esibizione e un torneo prestagionale. Giocano, guadagnano due soldi e si allenano in vista dei tornei veri. Sì. Sì, sì, anche perché ce n'è uno che non è esattamente lontano, no? No, che è quello grosso, l'Australia, con tutte le incognite del caso, però è un torneone che conta tanto, che dice tante cose, si apre una stagione, si apre un decennio veramente interessante per il tennis, no? Un po' come per il calcio, è stato rimesso tutto in discussione dalla Juventus, che vince meno e improvvisamente ci divertiamo, i tifosi juventini ovviamente non ci vorranno bene per questa cosa, ma improvvisamente è diventato un campionato più interessante, no, quest'anno, per una serie di motivi. Ma il tennis sta anche diventando più interessante perché i grandi, i big, stanno diventando più vecchi, arrivano i giovani, perciò c'è chi dice che quest'anno almeno due tornei su quattro saranno vinti da, parlo di Slam, Carlo, saranno vinti da newcomer, cioè gente nuova che non ha ancora vinto Slam. E noi nascondiamo un sorrisetto sotto i baffi. Ma così lo nascondiamo per il momento, no? Noi vediamo un po', perché sai, Nadal a Parigi è ancora, secondo me, infortuni a parte, ovviamente, al netto di eventuali infortuni, secondo me Nadal a Parigi anche quest'anno parte testa di serie numero uno. Federer a Wimbledon non puoi escluderlo, Djokovic è Djokovic, all'Australian Open parte lui in test. Vediamo però, perché sai, Tsitsipas, Thiem, tanti giovani nuovi, lo stesso Berrettini, mettiamo le mani in ogni luogo ferroso, metallico che conosciamo. So, vediamo un po'. Secondo te, Carlo, io se ti facessi questa domanda e ti dicessi, secondo te quest'anno quattro slam li vincono i vecchi o i nuovi, e in che percentuale vecchi e nuovi? Non lo so. Secondo me due è verosimile. Ma guarda, fosse anche 3-1 io me lo prenderei. Metteresti anche la firma su 3-1? Io sì. Però 3-1 mi sembra veramente possibile. 2-2 forse è un po' ardito. Vabbè, ci fermiamo lì. Intanto ripetimi il titolo del programma di domani, 6 Day Morning. 6 Day Morning, dalle 11 alle 14 su 200 di Sky. Abbiamo il tuo amico Marino Bartoletti. Che quando gli ho detto, ma grande Marino! Quando gli ho detto di portare un vinile, arriva col camion. Arriva praticamente con un container o qualcosa del genere. Ciao Stefano, ti abbraccio. Grazie Carlo, ciao, a presto molto. Ovviamente domenica prossima, convocazione presente, automatica. Per te. Presente quando vuoi. Ciao. Grazie Stefano Melocaro. Traffico, torniamo. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Oggi di episodi, al di là del rigore che ha decisivo in Lazio, in Brescia-Lazio, con conseguente espulsione di Cistano, lo dicevamo prima, è chiaro che non ci sono in una partita e mezza, a proposito 0-0 tra Genoa e il Sassuolo, non ci sono grandi episodi, ma è tutta settimana che voglio parlare con Luca Marelli, perché l'altro giorno ovviamente si è detto cambiano le regole fuori gioco, adesso sarà diverso. In questo 2020, ho detto fermi tutti, lo faccio spiegare da Marelli. Buongiorno Luca. Buonasera a voi, ciao, ciao. Ben trovati. Cosa cambia? Niente, assolutamente nulla. Per utilizzare una, come posso dire, diciamo che è abbastanza grave quello che è successo, perché se una notizia di questo genere viene ripresa da un sitarello, ci può anche stare, magari con poche competenze in materia, va bene, ma se un grande quotidiano e il giorno dopo altri due quotidiani sportivi più importanti ribadiscono un concetto che in realtà non è inesistente, e allora dobbiamo cominciare a preoccuparci un po', perché è vero che stiamo parlando di calcio, però dobbiamo pensare anche che il fuorigioco è probabilmente la pietra angolare di tutto di questo sport, e perciò bisogna andarci molto cauti a no, immaginare. Perché se mi dici che non verranno più fischiati fuori gioco, le situazioni fuori esatto. gioco di pochi millimetri, centimetri, cosa facciamo? Stiamo lì a misurare fuori gioco? Cioè, se c'è un problema che il VAR ha risolto, piaccia oppure no, è quello del fuorigioco. Se è fuorigioco lo si vede, lo si segnala, punto e basta. Se invece dobbiamo prendere in mano esatto. ancora qualche parametro diverso, beh, allora io mi arrendo. Sì, no, è anche perché probabilmente, visto che comunque qualche rumor c'è in giro sul fuorigioco, è probabile che qualcosa verrà modificato, magari non quest'anno, ma l'anno prossimo. Non so che cosa sarà la modifica, quale sarà, che cosa stanno pensando. Sicuramente ci sarà qualche riflessione sul fatto che si può lasciare andare, cambiando la regola però, non con una tolleranza che di fatto rende inutile il regolamento. Bisogna cambiare il regolamento per favorire il numero di reti, la spettacolarità, che poi è quello il principio sul quale la Premier League si è un po' rivoltata contro il VAR, no? Cioè loro preferiscono avere sempre lo spettacolo in campo e non aspettare decisioni esterne, vogliono più reti piuttosto che reti annullate, per quanto giustamente annullate. Può darsi che qualcosa cambierà, e non credo quest'anno, cioè dalla prossima stagione, penso più dalla stagione 21-22. Sì. Vedremo, qualche rumore in giro c'è, si parla del concetto di luce, però è anche un concetto che è già stato utilizzato in passato, e ti dico la verità, quando ce lo hanno tolto noi abbiamo fatto i salti di gioia, no? Certo, era impossibile da giudicare. No, si finirebbe per complicare ulteriormente la vita degli arbitri quando non ce n'è bisogno, anzi si tratterebbe di semplificarla, e io mi aspetto che in questo 2020 qualcosa venga fatto in tale direzione. Me lo auguro anch'io. Comunque pensiamo anche a un concetto, cioè quello su cui bisogna insistere è che con la tecnologia attuale, con il crosshair, con il VAR, con la goal line technology si è raggiunti già un livello di perfezione sulle decisioni che è molto elevato. Bisognerebbe insistere molto su questo per convincere l'opinione pubblica che bisogna non solo fidarsi degli uomini, perché chiaramente ci può anche essere malfidenza nei confronti di una categoria che comunque è stata attraversata in passato da scandali, però la macchina è la macchina, cioè se non ci mettiamo in testa che con la macchina si arriva a decisioni corrette, anche certo. dolorose a volte, perché certo. vengono annullate delle reti che possono essere anche belle da vedere, però bisogna convincersi. Se però la stampa alimenta queste false notizie che poi sono nate da una cattiva interpretazione, prima in Inghilterra e poi in Italia, di dichiarazione di un segretario generale che non ha alcun compito operativo all'interno dell'IFAB, e allora così non va bene. Grazie Luca, ci vediamo settimana prossima. Grazie a voi, ciao, buon ciao, lavoro. Ciao Luca Marelli, buon anno naturalmente, faccio gli auguri anche a mio amico Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao, buon anno a tutti. Che bello ritrovarti. Senti, di solito ci troviamo qui a parlare di Formula 1, invece adesso per prima cosa ti chiedo di Ibra, se sei contento oppure no, se lo vuoi vedere in campo con la Sampdoria oppure no. Lo vuoi vedere in campo subito, perché... Anche cartonato, come dice il tuo amico Pellegatti. Ha detto di non essere venuto a fare la mascotte, sono convinto che sia questa la sua idea, di venire a dare uno scossone al Milan, che ne ha bisogno assolutamente, visto che non va dimenticato come Boban e Pioli hanno sottolineato il 5-0 di Bergamo, e Ibra dà lo scossone nello spogliatoio sicuramente, speriamo che lo possa dare ancora anche in campo. Io ne sono convinto, uno come Ibra serve a risvegliare la personalità di certi giocatori, e in campo serve a creare spazi e anche a far segnare chi gli sta di fianco. Quindi benvenuto a Ibra, che credo i tifosi del Milan stiano accogliendo forse anche con un'inaspettata euforia, perché sembra che sia arrivato Ibra 10 anni fa, insomma. Vabbè, direttore, quando sei così depresso arrivi Ibra, ti sembra una bottiglia d'acqua nel deserto. A proposito di deserto, beh, innanzitutto ovviamente 1-1 tra Genoa e Sassuolo, fine primo tempo, rigore di Criscito e pareggio di Obiang. Al di là di questo, e a proposito di deserto, Libra del volante, Fernando Alonso sta correndo una corsa che, vabbè, l'etichetta dice Dakar, in realtà si corre in Arabia Saudita, di Dakar c'è nulla. Ma come, Dakar come? C'è nulla, perché dopo 20 anni in Africa e 11 anni in America del Sud si va a correre in Arabia Saudita, un altro deserto, un'altra storia. Però una gara più complicata forse degli ultimi anni, perché è stato tolto il GPS, è stato tolto certe agevolazioni che i top team avevano, quindi sarà una gara molto di navigazione. però Fernando Alonso si è presentato da par suo, perché una delle sue prime dichiarazioni da Dakar è stata: io dos grande pelotas, e insomma, e questo si fa capire che cosa sia andato lì a fare. Magari non riuscirà a vincere, perché non è semplicissimo, non è come ha fatto magari nelle 24 ore di Le Mans di Daytona, dove la sua classe è persa comunque anche grazie al team in cui, però lui si sta andando a confrontare in un terreno completamente nuovo. Tanti complimenti, perché visto ma non di ha cosa stiamo parlando? Ma, Formula 1. Ma stai scherzando? Cioè, ma massima stima, ammirazione in piedi e sull'attenti per Fernando Alonso, che è Fernando Alonso e che correrebbe anche la gara dei kart sotto casa, perché uno così che si mette in palio in ogni tipo di competizione su ogni tipo di terreno, e beh, insomma, io credo tanto, che sia tanto di cappello. Piloti che fanno come lui al giorno d'oggi non ce ne sono, e la Dakar è un'impresa assolutamente scomoda, anche se la fai con un top team come il suo della Toyota, anche se la fai con una squadra con il suo navigatore, è uno che ha vinto 5 volte la Dakar, è uno che è stato il direttore tecnico della Dakar per tanti anni, questo coma spagnolo come lui, quindi ha tutto per fare una grande avventura, però è sempre un'avventura il deserto, te lo devi fare, 7-8 ore di guida sulla sabbia te le devi fare, come diceva lui, in Formula 1 devi stare concentrato 1 ora e mezza, qui devi stare concentrato per 7-8 ore, perché se sbagli un percorso, se non vedi magari un sasso, un avvallamento messo male, rischi di capottarti, di farti male. Quindi tanto di cappello a uno che continua a mettersi in gioco, visto che la Formula 1 non lo vuole, preferisce i più giovani, che magari piantano anche meno grano di lui, va detto. Però Fernando Alonso è un pilota che aveva un grandissimo talento, e se non ha vinto il terzo mondiale qualche colpa ce l'ha lui, ma qualche colpa non va dimenticato, ce l'ha avuta anche la Ferrari per quel gran finale di Abu Dhabi del 2010. Guarda, io continuo a pensare che i soli due titoli mondiali di Alonso siano un falso storico, perché assolutamente sono assolutamente d'accordo con te, perché Alonso merita di più per il talento che ha fatto vedere. Magari in prova non era straordinario, in prova lui perdeva qualcosa, però il suo modo di interpretare la gara era veramente ai livelli dei più grandi, lo è stato per anni e su qualsiasi tipo di vettura, perché lui è vero che ha vinto anche in modo chiacchierato come il famoso anno del Singapore Gate, però è sempre stato un pilota che riusciva a ottenere dalla macchina molto di più di quello che la macchina valeva, e il suo terzo titolo mondiale, visto l'albo d'oro della Formula 1, insomma, l'avrebbe assolutamente meritato per quello che ci ha fatto vedere. Brutto da dire, ma mi sembra che abbia bruciato gran parte delle sue prospettive, del suo talento, proprio guidando una Ferrari non competitiva, quindi è stato quasi un sacrificio molto ben pagato, peraltro di altissimo livello, però è arrivato due anni a giocarsi il titolo mondiale all'ultima gara con la Ferrari, cosa che non è poi più capitata neppure a Vettel, perché Vettel i suoi mondiali in Ferrari li ha persi a metà stagione più o meno, se non addirittura all'inizio della stagione. E una volta è stata sicuramente colpa della Ferrari, la seconda volta qualche colpa l'ha avuta anche lui, però ha avuto anche in quelle due avventure molta sfortuna lui e molta fortuna il Vettel, che dall'altra parte si è conquistato quei due titoli mondiali. Però almeno quello del 2010, insomma, quel titolo perso per un problema di strategia ad Abu Dhabi se lo sarebbe assolutamente meritato. Grazie direttore, a prestissimo. Grazie a voi, buon anno. Ciao Umberto, a tutti, buon anno naturalmente, buon anno a tutti voi, buona Befana, ma tanto domani ci sentiamo, quindi ci facciamo in diretta gli auguri da tutti convocati in diretta dalle 14 alle 15 come ogni giorno. Edoardo Lavezzani, il nostro autore, Valeria Bernardi ora in regia. Ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.